Prima Epistola ai Corinzi, capitolo decimo. Perché, fratelli, non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, e tutti passarono attraverso il mare, e tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè, e tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, e tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e la roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro il Dio non si compiacque, poiché furono atterrati nel deserto. Or, queste cose avvennero per servire d'esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi, onde non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo che è scritto: il popolo si sedette per mangiare e per bere, poi si alzò per divertirsi, onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero, in un giorno solo, 23.000. Onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. E non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Perciò, chi si pensa di stare ritto, guardi di non cadere. Niuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare. Perciò, cari miei, fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi di quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è egli la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo, non è egli la comunione col corpo di Cristo? Siccome v'è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne, quelli che mangiano i sacrifici non hanno essi comunione con l'altare? Che dico io dunque? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualche cosa? Che un idolo sia qualche cosa? Tutt'altro, io dico che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio. Or io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O voglia noi provocare il Signore a gelosia? Sia noi più forti di Lui? Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi l'altrui. Mangiate di tutto quello che si vende al macello senza fare inchieste per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. Se qualcuno dei non credenti vi invita e voi volete andarci, mangiate di tutto quello che vi è posto davanti senza fare inchieste per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dice: questa è cosa di sacrifici, non ne mangiate per riguardo a colui che va avvertito o per riguardo alla coscienza di quell'altro. Infatti, perché la mia libertà sarebbe ella giudicata dalla coscienza altrui? E se io mangio di una cosa con rendimento di grazie, perché sarei biasimato per quello di cui io rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non siate d'intoppo, né ai giudei, né ai greci, né alla chiesa di Dio. Sì, come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, non cercando l'utile mio proprio, ma quello dei molti, affinché siano salvati. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo.